Bologna è sempre stata in Italia la città della musica, soprattutto quella indipendente, cantata nelle piazze e nei parchi, e soprattutto ha sempre ispirato tanti cantautori. Quindi mi stavo chiedendo quale fosse il segreto di questa città, quale fosse questa magia latente che lega la musica e Bologna così strettamente. Ho pensato allora di chiederlo a Mazzoli, giovane cantautore originario di Pesaro che è venuto a Bologna con il sogno di fare musica. Iniziamo, parlami un po' di te, raccontami qualcosa. Allora, ciao a tutti, sono Pietro, in arte Mazzoli. Niente, faccio musica da un po', da quando sono piccolino, ho iniziato cantando in un coro, sono arrivato poi a scrivere le canzoni, suonare la chitarra a scuola e arrivo qua a Bologna con l'idea di voler fare questo nella mia vita. Ho trovato il mio nome d'arte sul campanello di casa, che è una cosa sempre molto ironica, però in realtà mi piace perché mi ricorda che è qua che ho ripreso un po' le redini di questo percorso, ecco. Ok, quando hai iniziato a scrivere? A scrivere verso i 12 anni, ero tipo in gita di ritorno da Ischia e c'era, io credo che una delle solite ragioni per le quali si inizia a scrivere è la ragazzina, no? La compagna di banco, ecco, in questo caso era nel pullman con me, qualche posto più indietro, no? La guardavo, c'era il sole del tramonto mentre si ritornava dal sud Italia verso casa, sì, e niente, mi mettevo giù e c'avevo questo testo che finivo con l'1% nel telefono che avevo, nell'autogrill, bellissimo, sì, me lo ricordo veramente. Ma hai iniziato subito con la musica oppure a scrivere solo testi? Cioè, magari tipo poesie o... Allora, mi piaceva molto a scuola scrivere. In generale, quando si facevano esercizi di temi, cose del genere, andavo sempre molto, molto bene, ero felice di farli, era l'unica cosa che mi piaceva, ecco. Poi dopo, effettivamente, mi è piaciuto sin da subito metterlo in musica perché era l'altra cosa che effettivamente mi appassionava un po' da sempre nella vita. E il tuo rapporto con le parole, quindi, com'è? Ah, il mio rapporto con le parole è un rapporto molto strano, arrivato a questo punto. Diciamo che è un rapporto d'amore, sicuramente, idilliaco in certi momenti, in altri un po' difficile, perché credo di avere un po' perso la facoltà di comunicare bene nella quotidianità per stare più dietro alle parole nelle mie cose, perché veramente faccio ormai solo questo tutti i giorni, quindi ho questa mentalità schematica della ricerca della parolina, però mi fanno stare tanto bene. E anzi è bellissimo inseguirle, è forse una delle cose che più mi appassiona, anche nelle canzoni magari è il lato sul quale mi soffermo di più alla fine, ecco. Cioè ci metti tanto a cercare la parola giusta? È una cosa difficile o ti viene naturale? Ci metto il tempo che serve. Perché ci sono momenti, sì, ci sono momenti, questa sembra preparata, vero? Invece sì, no, va bene, vabbè. Ci sono momenti in cui ti esce una canzone diretta, ce l'hai dentro. Cioè, non lo so, credo che ogni tanto ci siano proprio delle connessioni, come se svolazzassero un po' certe idee sulla testa e tu devi essere un po' il mezzo per coglierla. E ci sono momenti in cui sei più bravo ad esserlo e momenti in cui invece devi metterci più la tua mano che l'idea. Ok? E quindi dipende da quello, secondo me. Ci sono canzoni che si scrivono in 10 minuti, che non tocchi con la penna e ci sono giornate dedicate alla ricerca di un verso. E ti ispiri a qualcosa quando scrivi? Ma dipende. Allora, sicuramente una cosa che mi piace molto cercare è un po' un lato più quotidiano, psicologico delle cose. Cioè il nostro rapporto con l'ordinarietà. Ecco, questo mi piace molto, mi piace cercare questo aspetto delle persone. Il fatto di essere un po' fragili tutti, di non volercelo raccontare, di avere i nostri vizi, le nostre passioni, però tutto questo modo di arrabattarsi dietro, ecco, sì, questo mi appassiona. Questo mi appassiona molto e cerco spesso di avere questo impronta qua. E se no, sì, ci si ispira a persone, a cose, a quello che effettivamente ti rimane, no? Un po' più in rilievo rispetto a tutto il resto. Però è difficile che sia tu a scegliere cosa ti ispira, ecco. Se lo fai in questa maniera qua, poi. E la cerchi ogni tanto? Cioè sì, ti capita di cercarla? Mi capita di cercarla, mi capita di stare tanto con la testa su un punto e di non trovarci capo né coda, però ogni tanto invece viene bene. E forse era proprio il fatto di dover seguire di più, di perseverare un po'. Dipende. È molto vago e mi piace questa cosa che non ci sia uno schema fisso. Come sei cambiato da quando sei qua a Bologna? Cioè questa cosa dell'ispirazione, in questa cosa delle parole, un po' in tutto. Ma qui a Bologna ho capito una cosa. Effettivamente c'è la possibilità per tutti di esprimersi al mondo. E mi sono lasciato libero per la prima volta nella vita di inseguire più quello che sono che quello che dovevo essere effettivamente. Bologna mi ha dato questa possibilità qua, mi ha aperto questo scenario e sono molto contento di esserci passato, perché penso che se non avessi trovato un posto con queste energie non avrei fatto queste scelte, non nella mia vita e non sarei felice ora di averle fatte. E secondo te perché proprio Bologna? Cioè un'altra città ti avrebbe dato la stessa cosa e se no perché proprio Bologna? Allora, ci sono città che sicuramente mi potrebbero dare tanto, ma Bologna ha una sua grande personalità, non c'è niente da fare. Lascia sempre qualcosa, lascia sempre un sorriso in più di tanti altri posti. Sarà che è un po' piccolino il centro storico, che si fanno le vie grandi, sempre piene di persone, la gente che fa aperitivi da dicembre fino a luglio e non c'è una giornata dove non vedi qualcuno comunque fuori da un bar in un'osteria preso bene. E questa cosa penso che arrivi. Tantissime energie buone delle persone in un modo o nell'altro e soprattutto ci sono tanti ragazzi, quindi c'è tanto sognare in questo posto. Questi pensieri, tutti assieme, tutti in un certo posto, in qualche modo creano l'aria magica che ha Bologna. Invece da poco hai pubblicato Sfumare Mare o Mare. Mm-hmm. Parlamene, vai. Ok, allora. Sfumare Mare o Mare, l'ultima uscita del mio progetto Mazzoli. Le potete trovare su Spotify, perché ragazzi, prima cosa fondamentale è la marchetta. Sorvolando questa cosa, no, vabbè. Sono due canzoni che si affacciano su uno scenario fantastico. Uno scenario che alla fine, no, è proprio il principale di tutta la mia vita, che è il mare. Ho deciso di unirle perché volevo proprio avere questa doppia faccia del mare, no? Da una parte un mare più dolce, ricordo, ma anche un po' malsano, no? Di questa cosa di non riuscire a lasciare il passato. E dall'altra parte invece un mare più vivo, un mare più vero, dove effettivamente decidi tu di scontrarti con la vita, magari anche, no? Di fare quella scommessa in più. E alla fine la cosa che si chiede su Mare o Mare è di avere un po' di conforto. È difficile arrivare a un porto senza avere una rotta, ma dall'altra parte poi è la vita che fa il resto, no? È il mare. sì, salutiamo le persone, Mario Mare, ascoltate, ciao, sfumare, ciao.